Terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary di Gustave Flaubert. Quando si trovarono soli, Lheureux prese a congratularsi con Emma. «E così eccovi completamente ristabilita. Parola mia, ho visto il vostro povero marito in uno stato. È un bravo ragazzo, anche se tra noi c'è stata qualche difficoltà. È stato per quel vostro capriccetto, i bauli per quel viaggio». Comunque abbiamo fatto pace, anzi, venivo con una bella proposta. Si trattava di rinnovare la cambiale firmata da Bovary. Il signore, del resto, poteva fare come meglio gli andava, non doveva tormentarsi per una questione del genere, soprattutto ora che avrebbe avuto una quantità di seccature. Anzi, farebbe meglio a scaricarsene su qualcuno, su voi, ad esempio. Una bella procura e tutto sarebbe più comodo. Allora noi due potremmo combinare insieme qualche affaruccio. Emma non capiva. S'azzittì. Poi, passando al suo commercio, Lheureux dichiarò che la signora non poteva esimersi dall'acquistargli qualcosa. Le avrebbe mandato una stoffa di barège nera, 12 metri, un taglio di vestito. «Quello che avete va bene per casa, ma ve ne occorre un altro per le visite. L'ho visto subito, mettendo piede qua dentro. Ho l'occhio clinico, io». Non la mandò quella stoffa, la portò. Non parlava mai della cambiale. Lei non ci pensava. Charles, i primi giorni della sua convalescenza, doveva avergliene accennato, ma nella sua testa s'erano succeduti tanti di quei turbamenti e lei non ricordava più. D'altra parte, si guardò bene dal sollevare la minima discussione di interesse. Ma quando la suocera fu partita, Emma non tardò a meravigliare Bovary con il suo senso pratico. Occorreva assumere informazioni, verificare le ipoteche, vedere se ci fosse una possibilità di licitazione o di liquidazione. Citava a caso termini tecnici, pronunciava parole grosse, ordine, futuro, previdenza. Esagerava continuamente i fastidi della procedura per la successione, sinché un giorno arrivò a mostrare al marito una bozza di autorizzazione generale a dirigere e amministrare i suoi affari, contrarre qualsiasi prestito, firmare e girare cambiali, eseguire pagamenti, eccetera. Aveva tratto veramente profitto dalle lezioni di Lheureux. Charles le domandò ingenuamente da dove venisse quel papiro. «Dal signor Guillaume?» E con il più gran sangue freddo di questo mondo aggiunse: «Non me ne fido troppo. I notai hanno una così brutta fama. Forse bisognerebbe consultare... Noi conosciamo soltanto... Oh, nessuno!» «A meno che, Léon», replicò Charles pensieroso. Ma era difficile spiegarsi per corrispondenza. Allora lei si offrì di fare il viaggio. Lui la ringraziò. Lei insisté. Fu una gara di gentili attenzioni. Alla fine lei gridò con accento di finta ribellione. «Oh no, ti prego, lasciami andare!» «Oh, quanto sei buona!» disse lui baciandola in fronte. Il giorno dopo lei si imbarcò sulla rondine per andare a Rouen a consultare Léon. Ci restò 3 giorni. Furono 3 giorni pieni, squisiti, splendidi, una vera luna di miele. Stavano all'albergo Boulogne sul porto e ci vivevano a imposte serrate, porte sbarrate, fiori per terra, bibite in ghiaccio che venivano preparate già dal mattino. Verso sera prendevano una barca coperta e andavano a cenare in un'isola. La loro meta era la sala bassa di un'osteria, davanti alla cui porta pendevano nere reti da pesca. Mangiavano frittura di merlano, crema, ciliegie. Si sdraiavano sull'erba, si baciavano più lontano tra i pioppi solitari. Come 2 Robinson avrebbero voluto vivere per sempre in quell'angolo che alla loro felicità appariva il più incantevole del mondo. Tuttavia furono costretti a separarsi. Gli addii furono tristi. «Così mi assicuri che questa procura va bene?» domandò lei dandogli l'ultimo bacio. «Sì, certo». «Ma perché mai le premeva tanto la procura?» pensò lui più tardi, tornando a casa. Léon assunse ben presto un'aria di superiorità nei confronti dei suoi colleghi, si astenne dalla loro compagnia e trascurò completamente le pratiche dello studio. Passava la vita ad aspettare le sue lettere che leggeva e rileggeva, e le scriveva, la evocava con tutta la forza del desiderio e del ricordo. Invece di diminuire con la lontananza, il bisogno di rivederla si acuì tanto da spingerlo a piantare in asso l'ufficio un sabato mattina. Andò a girare nei pressi della casa di lei. In cucina era accesa una luce. Spiò se l'ombra di lei apparisse dietro le tendine. Nulla. Alla fine Léon si decise. Andò a bussare alla porta del medico. La signora era in camera sua. Ne discese solo un quarto d'ora dopo. Il signore parve felice di rivederlo. In compenso non si allontanò di casa per tutta la serata e il giorno seguente. Insomma, riuscì a vederla da sola, lei, molto tardi, dietro il giardino, nel vicolo. Nel vicolo, come l'altro. C'era il temporale. Si parlavano sotto l'ombrello al chiaror dei lampi. Il distacco diventava intollerabile. «Piuttosto morire», diceva Emma. Si aggrappava al suo braccio piangendo. «Addio, addio. E quando ti rivedrò?» Tornarono sui propri passi per baciarsi ancora. E fu a questo punto che lei gli promise che avrebbe trovato presto, con qualsiasi mezzo, l'occasione di incontrarlo liberamente almeno una volta alla settimana. Emma era sicura di riuscirci. D'altronde era piena di fiducia, avrebbe ricevuto del denaro tra poco. E così acquistò per la sua camera un paio di tende gialle a righe larghe, che Leroux le aveva vantato a buon mercato. Sognò di possedere un tappeto, e Leroux, affermando che in fin dei conti non si trattava mica di prosciugare il mare, si impegnò con molto tatto a procurargliene uno. Lei non poteva più fare a meno dei servigi del merciaio. Lo mandava a chiamare 20 volte al giorno e quello piantava in asso qualsiasi lavoro senza permettersi una protesta. Non si capiva neppure perché mamma Rollet si fermasse tutti i giorni a pranzare da lei e le facesse anche visite confidenziali. Verso quest'epoca, ovvero il principio dell'inverno, Emma apparve invasata da un grande ardore musicale. Una sera Charles la stava a sentire e lei ricominciò 4 volte di seguito lo stesso pezzo e si indispettiva sempre più. Lui, invece, senza notare nulla, continuava a dirle: «Brava, benissimo, hai torto, va avanti!» «Eh no, è una vergogna, ho proprio le dita arrugginite!» Il giorno dopo lui la pregò di suonargli ancora qualcosa. «E sia, per farti piacere!» Charles finì per confessare che effettivamente lei era un poco fuori esercizio. Sbagliava a leggere, si impasticciava, si fermava di colpo. «È inutile, dovrei prendere delle lezioni, ma...» Si morse le labbra, aggiunse: 20 franchi per volta è troppo caro.» «Eh sì, effettivamente è piuttosto caro», disse Charles sorridendo stupidamente. «Però credo che si potrebbe trovare anche a meno. Ci sono artisti sconosciuti che valgono più di certe celebrità.» «A trovarli», disse Emma. Il giorno dopo, rincasando, lui la guardò con aria furba e alla fine non poté trattenersi dal dire: «Come sei ostinata ogni tanto!» «Oggi sono stato a Barfecheur.» «Bene, la signora Liégeard mi ha assicurato che le sue 3 ragazze che stanno al Collegio della Misericordia prendono lezioni per 50 soldi e da una maestra famosa per di più.» Lei alzò le spalle e non aprì più lo strumento. Ma quando gli passava vicino, se Bovary era presente, sospirava: «Ah, povero il mio piano!» Quando aveva delle visite, non mancava di informare tutti che aveva abbandonato la musica e non poteva rimettercisi, ormai per ragioni di forza maggiore. Allora la compiangevano. Peccato, lei che aveva una simile disposizione. Qualcuno finì per affrontare l'argomento con Bovary. Arrivarono a riproverarlo. Charles, dunque, tornò sulla questione del piano. «Se tu volessi, una lezione ogni tanto non sarebbe in fin dei conti una rovina.» «Le lezioni servono solo se vengono seguite regolarmente», replicava lei. Ecco in che modo ottenne dal marito il permesso di andare in città una volta alla settimana a veder l'amante. In capo a un mese furono tutti d'accordo nel riconoscere che aveva fatto considerevoli progressi. Il giovedì era il gran giorno. Lei si alzava e si vestiva in silenzio per non svegliare Charles, che le avrebbe fatto osservazioni perché si preparava troppo di buon'ora. Quando la pendola segnava le 7:15, lei se ne andava al Leon d'Oro. La rondine partiva al piccolo trotto e per un tre quarti d'ora si fermava di fattoria in fattoria per caricar passeggeri che l'aspettavano in piedi sull'orlo della strada davanti ai cancelli dei cortili. Alla barriera la vettura si fermava. Emma si sganciava le soprascarpe, cambiava i guanti, aggiustava lo scialle e 20 passi più in là si faceva lasciar giù. Per timore d'essere vista, di solito non prendeva la via più breve. Si inoltrava in straducole buie e arrivava tutta in sudore quasi al fondo di Rue Nationale, vicino alla grande fontana. Girava ad un tratto per una via laterale e subito lo riconosceva lui dalla capigliatura ricciuta che sfuggiva all'ala del cappello. Leon continuava a camminare sul marciapiede. Lei lo seguiva sino all'albergo. Lui saliva, apriva la porta, entrava. Come la stringeva forte immediatamente. Dopo i baci, un diluvio di parole. Si raccontavano le pene della settimana, i presentimenti, le ansie per le lettere. Ma poi dimenticavano tutto. Faccia contro faccia si guardavano con risa di voluttà, invocazioni di tenerezza. Il letto era grande, di mogano, a forma di navicella. Le tende di damasco rosso, che scendevano dal soffitto, si raccoglievano troppo in basso, sopra il largo capezzale, e non c'era nulla di più bello della sua testa bruna e della sua pelle bianca su quello sfondo di porpora, quando, con un gesto pudico, lei serrava le braccia nude, nascondendo la faccia tra le mani. Quant'erano affezionate a quella cara stanza, così piena d'allegria nonostante il suo gusto vecchiotto, un poco appassito. Ritrovavano sempre i mobili al loro posto. A volte ritrovavano persino qualche forcina che lei aveva dimenticato il giovedì precedente sotto lo zoccolo della pendola. Pranzavano davanti al fuoco, su un tavolino incrostato di palissandro. Emma tagliava la carne. Con mille moine metteva i bocconi migliori nel piatto di Leon e rideva sonoramente, libertinamente, quando la spuma dello champagne traboccava dal calice leggero sugli anelli che portava alle dita. Erano talmente perduti nel reciproco possesso che credevano di essere a casa propria, la casa in cui avrebbero dovuto vivere sino alla morte come due eterni giovani sposi. Lui assaporava per la prima volta l'inesprimibile delicatezza delle eleganze femminili. Non s'era mai imbattuto in una simile grazia nel parlare, un simile riserbo nel vestire, simili pose di colomba assopita. Ammirava l'esaltazione della sua anima e i merletti della sua gonna. D'altra parte, non era forse una signora della buona società e una donna sposata? Una vera amante, insomma. per la mutevolezza del suo umore, di volta in volta mistico e gioioso, loquace, taciturno, impetuoso, svagato, lei richiamava in lui mille desideri, evocava istinti e ricordi diversi. Era l'amante di ogni romanzo, l'eroina di ogni dramma, la vaga donna di ogni volume di versi. Spesso guardandola lui aveva l'impressione che la propria anima, slanciandosi verso di lei, si spandesse come un'onda intorno alla sua testa, fosse travolta nel candore del suo petto. Si metteva a sedere per terra davanti a lei, i gomiti sui ginocchi, la contemplava con un sorriso, tendendole la fronte. Allora lei si chinava verso di lui e bisbigliava, come soffocata dall'ebbrezza. «Oh, non muoverti, non parlarmi, guardami. Dai tuoi occhi esce qualcosa di tanto dolce che mi fa un bene infinito». Lo chiamava bambino. «Mi ami, bambino mio?» E non stava mai a sentire la risposta nell'impeto delle labbra che cercavano la sua bocca. C'era sulla pendola un piccolo cupido di bronzo che curvava a civettuolo le braccia sotto una ghirlanda dorata. Ne risero più e più volte, ma al momento di separarsi tutto diventava per loro così serio. Immobili si fronteggiavano ripetendosi «A giovedì, a giovedì». D'improvviso lei gli prendeva la testa tra le mani, lo baciava in fretta sulla fronte gridando «Addio!» e si slanciava per le scale. Emma risaliva le strade, arrivava al Croce Rossa. riprendeva le soprascarpe che la mattina aveva nascosto sotto un sedile e si rincantucciava al suo posto tra i viaggiatori impazienti. Alcuni scendevano all'inizio della collina. Restava sola nella diligenza. Sulla collina c'era un poveraccio che vagabondava tra le diligenze con il suo bastone. Un mucchio di stracci gli copriva le spalle e un vecchio berretto di castoro sfondato, arrotolato a forma di catino, gli nascondeva la faccia, ma quando se lo toglieva scopriva al posto delle palpebre due orbite beanti e insanguinate. Ripeteva una canzonetta inseguendo le vetture. Spesso d'estate il calor fa sognare alle pupe l'amor. E c'era tutto un seguito con uccelli, sole e frasche. Spesso durante la strada il cappellaccio entrava bruscamente nella diligenza attraverso i finestrini, mentre il mendicante, arrampicato sul predellino, si teneva aggrappato con un braccio tra gli schizzi delle ruote infangate. La sua voce, dapprima debole e gemente, diventava acuta. Si strascicava nella notte come il lamento indistinto d'un vago dolore. Attraverso il tintinnio delle bubole, il fruscio degli alberi, il fracasso dello scatolone vuoto, aveva qualcosa di remoto che turbava Emma. Ebbra di tristezza, tremava sotto le vesti e si sentiva i piedi sempre più gelati. Aveva la morte nel cuore. Charles a casa l'aspettava in ansia. La rondine era sempre in ritardo il giovedì. Finalmente la signora arrivava. Era tanto se baciava la piccola. La cena non era ancora pronta, ma cosa importava? Lei perdonava la serva. Adesso a quella ragazza pareva permesso tutto. Più volte il marito, notando il suo pallore, le chiese se non si sentisse male. «No», rispondeva Emma. «Ma sei così strana stasera», ribatteva lui. «Oh, non è nulla, non è nulla». Il venerdì era orribile. I giorni successivi ancora più intollerabili per l'impazienza che Emma aveva di riafferrare la propria felicità. Era un desiderio aspro, infiammato di note e immagini, destinato a sfrenarsi in capo a una settimana tra le carezze di Leon. Gli ardori di lui si nascondevano in espansioni di stupore e gratitudine. Emma assaporava quell'amore in modo discreto e assorto, lo alimentava con ogni artificio della sua tenerezza e tremava un poco di poterlo perdere più tardi. Spesso gli diceva con malinconiche dolcezze di voce: «Ah, mi lascerai tu, ti sposerai, farai come gli altri». «Quali altri?» lui domandava. «Ma gli uomini, insomma». Lo respingeva con un gesto languido, aggiungeva: «Siete tutti degli infami». Un giorno, che discorrevano filosoficamente delle delusioni terrene, lei arrivò a dirgli, per mettere alla prova la sua gelosia, oppure cedendo a un troppo forte bisogno di confidenza, che una volta prima di lui aveva amato qualcuno. «Non come te», si affrettò a precisare, e gli giurò sulla testa della figlia che non c'era stato nulla di nulla. Il giovane uomo le credette. Ad ogni modo volle sapere cosa facesse l'altro. «Era capitano di vascello, tesoro», disse così per prevenire ogni ricerca e nello stesso tempo per situare se stessa più in alto con la pretesa seduzione di un uomo che doveva essere di natura bellicosa e avvezzo alle lusinghe femminili. L'aiuto notaio avvertì allora tutta la miseria della propria condizione. Invidiò spalline, decorazioni, titoli, tutte cose che dovevano piacerle a lei. Lo si capiva bene dalle sue abitudini dispendiose. Spesso, quando parlavano di Parigi, lei finiva per mormorare: «Ah, come sarebbe bello vivere là!» «Non siamo felici lo stesso?» replicava dolcemente Léon e le passava una mano sui capelli. «Sì, hai ragione. Sono pazza. Baciami!»